Quindi tutta una serie di accorgimenti, di attenzione, di ricerche andranno ovviamente ancora fatte e finalizzate proprio a questo obiettivo specifico. Sì, quindi tecnologie che sono già applicate da varie parti, ma che voi dovete riuscire a declinare in modo che proprio non rovinino assolutamente l'ambiente, l'habitat dell'isola. Certo. La sfida è questa qua. Certo. E la seconda sfida è quella poi di riuscire a integrare e quindi gestire l'energia prodotta da queste fonti rinnovabili in funzione della richiesta delle utenze. Più o meno questo deve essere la variabilità per poter avere maggiore efficienza. Esattamente, certo, per certo. Questo ci affideremo ovviamente alla previsione dell'energia che viene sviluppata, mm-hmm. e opereremo in funzione dei modelli previsionali meteorologici disponibili. Certo. Noi per questo lavoriamo già con l'ENEA e contiamo di proseguire con questa attività. Ad occhio e croce, quando pensate di partire, insomma, come stanno i tempi di lavoro, come potrebbero essere? Guardi, i tempi di lavoro sono sempre funzioni dell'iniezione di denaro che viene immessa nelle cose. E questo non lo sapete ancora esattamente, diciamo. E questo non lo sappiamo ancora. Va bene, però il progetto è molto bello. Lei però, Giuliana Mattiazzo, sa come va a finire questa cosa, lo sa? Io le dico come spero che vada a finire. No, volevo dirle, lo sa che quelli di Lampedusa poi saranno invidiosi, vorranno farla pure loro. Certo, ma infatti ci sarà poi Stromboli, le Tremiti, Favignana e il suo futuro. Noi contiamo anche su questo, ovviamente noi vorremmo proporre un modello valido per tutte le isole, ma non solo. Nel senso che qui la problematica per quanto riguarda la gestione della rete è limitata ad una rete che è chiusa su se stessa. Ma non ci dispiacerebbe che questo diventasse poi anche un modello di sviluppo per la rete della terraferma. Certo. Proviamo. Proviamo, dalle isole torniamo verso la terra. Grazie Giuliana Mattiazzo e ci tenga informati sugli sviluppi del progetto. Vi seguiremo. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Buonasera. Vi abbiamo già dato il titolo di questo libro perché è quello che diamo in premio al nostro quiz. E qui ho l'autore Armando Massarenti. Ciao Armando. Ciao. Ogni tanto torni qua in trasmissione da noi. Allora, il titolo però lo devo ricordare: perché pagare le tangenti è razionale ma non vi conviene, edito da Guanda. Il titolo è quanto mai divertente, anche il libro lo è. E Armando, qui c'è un problema, perché in una trasmissione di scienza, certo, dire che una cosa è razionale però non conviene sembrerebbe una contraddizione. Dobbiamo riuscire a metterle insieme. Che cosa racconti in questo libro con le tangenti, dal punto di vista scientifico addirittura? Ma dal punto di vista scientifico, nel senso che in gioco c'è una teoria, una branca dell'economia che ha una forte dose di matematica, di matematizzazione, sì, anche molto sofisticata. Gli esempi che faccio io però in realtà sono molto semplici. Sì, sì, abbordabili. È molto abbordabili. È la teoria dei giochi, questa branca di cui sto parlando. La teoria dei giochi, che è la teoria che parla delle interazioni strategiche, cioè come noi quando prendiamo delle decisioni teniamo conto di quello che fanno gli altri individui che immaginiamo coinvolti, che sappiamo coinvolti nelle nostre interazioni. Allora, perché pagare le tangenti è razionale ma non conviene? Significa che ci sono delle situazioni in cui è perfettamente razionale fare certe cose che purtroppo però sono del tutto irrazionali, almeno dal punto di vista della razionalità così come è definita dall'economia in generale, dalla teoria delle decisioni irrazionali in particolare e della teoria dei giochi, ancora più in particolare, che è un altro... Quindi è una razionalità ma che ci proviene da quella strana roba che si chiama scienza economica. Esatto, che però a volte è illuminante. Ecco, noi possiamo fare tutte delle critiche al fatto che l'homo economicus lo hanno fatto grandi scienziati, psicologi come Kahneman, oppure anche economisti come Amartya Sen. L'homo economicus non descrive esattamente quello che fanno gli individui, ma però è utile in certe situazioni, no? Proprio capire, ma io se sono in una situazione tipo il dilemma del prigioniero, no? Che è uno dei dilemmi più famosi, che cosa devo fare, che cosa posso fare? E lì viene fuori un paradosso, perché ci sono individui che avrebbero tutto l'interesse a cooperare ma non possono farlo perché gli incentivi sono messi in un modo tale per cui gli accordi non possono essere presi. Assolutamente presi. Però la cosa divertente, che è abbastanza nota nella storia di questa disciplina, è che c'è stata una rivoluzione negli anni 70 più o meno, che poi è ancora oggi in corso e ha avuto sviluppi incredibili, per cui ripetendo i giochi, cioè se uno fa un una cosa che sembra assolutamente dilemmatica, come il dilemma del prigioniero, se viene ripetuta, crea delle situazioni in cui agenti egoisti, razionali, come sono quelli della teoria economica, incominciano a cooperare naturalmente. Già. Perché capiscono la convenienza reciproca a cooperare e quindi, pur essendo. Quindi vede, il vantaggio di questo ragionamento, secondo me, è che noi attraverso una pura teorizzazione matematica e dei comportamenti reali comunque, che appunto cui la matematica spiega veramente come vanno le cose, possiamo anche evitare magari una serie di discorsi molto moralistici che spesso confondono più che chiarire le questioni sociali in cui ci troviamo. E quindi questo serve a chiarire anche tutte le dimensioni dove la cooperazione o la collusione hanno un carattere negativo. Allora però, Armando, la cosa è questa, cioè se si gioca una partita secca si cade dentro il dilemma del prigioniero, e cioè finisce che non conviene cooperare, mentre invece se si gioca più volte, allora lì cose cambiano. Sì, questo appunto con il dilemma del prigioniero. Purtroppo, laddove magicamente noi troviamo una situazione che sarebbe impossibile, la cooperazione è impossibile se si gioca una volta, perché specularmente i due soggetti pensano di non voler finire nella situazione peggiore, in cui quello che non coopera ha un guadagno molto netto e quello che invece ingenuamente, cioè un po' da fessacchiotto, no, coopera avendo fiducia nell'altro, finirebbe a perdere moltissimo. Nel caso del dilemma del prigioniero avrebbe 30 anni di galera. E allora, siccome entrambi vogliono evitare quella cosa lì di fare quella che si chiama ricompensa del babbeo, tra l'altro non a caso nella teoria dei giochi, entrambi lo vogliono evitare, quindi è razionale che nessuno dei due cooperi. Invece, ripetendo la cosa magicamente, questa è anche una buona notizia per l'umanità, diciamo, pur essendo egoisti, possiamo essere egoisti come vogliamo, ma naturalmente tendiamo alla cooperazione, laddove vediamo che è possibile e conviene. Il dilemma del pizzo, purtroppo, invece, e questo è il tema, è la differenza, è la cosa che io tematizzo nel libro, la differenza tra il dilemma del prigioniero e il dilemma del pizzo, così come l'ho battezzato io, è che lì ci si trova incastrati in un gioco dove non si riesce a venirne fuori, cioè tutti continueranno a pagare il pizzo pur sapendo che non gli conviene, perché gli incentivi li spingono a fare quello e perché non possono punirsi reciprocamente, come nel dilemma del prigioniero. No? Nel dilemma del prigioniero io, se vedo che tu non cooperi, questa strategia cosiddetta del pizzo stat, non coopero neanch'io, allora entrambi capiamo che non ci conviene non cooperare e riprendiamo a cooperare, l'equilibrio è quello della cooperazione. Nel dilemma del pizzo l'equilibrio invece è quello della continuare a pagare il pizzo, e da dove si vede che in questo modo si spiega come emergono delle norme spontanee, no? L'emergenza delle norme è tutto studiato nella teoria dei giochi di questo tipo, e però alcune norme non ci piacciono, sono le norme consuetudinarie che spesso la legge non riesce neanche a osteggiare e che sono pessime, perché sono i comportamenti che la gente ha poi magari, che ne so, di fronte all'amministrazione pubblica che così velatamente suggerisce pagamenti di oliare i meccanismi, no, in vari modi, eccetera. Ecco, quindi allora l'unica cosa da fare è la cosa, lo dico in una battuta di Davigo che io metto proprio all'inizio della prefazione, se uno potrebbe dire non ne possiamo uscire, tutti rubano, tutti pagano le tangenti, e allora Davigo, quando qualcuno dice così, gli dice: ma guarda, cerchiamo di non essere qualunquisti, lei ruba. Lui dice: io no, neanch'io, guardi, siamo già in due, possiamo ripartire da qui. Un inizio un po' lento, certo. È lento, ma anche qui ci soccorre la teoria dei giochi, ecco, senza, diciamo, la soluzione ottimale come nel dilemma del prigioniero, ma anche qui si è visto che se nuclei di onesti, tra virgolette, cominciano a seguire una regola diversa, opposta a quella per esempio del pizzo, hanno buonissime possibilità che evolutivamente quella norma piano piano prenda il sopravvento. Il giudice Davigo. Ricordo il titolo: Perché pagare le tangenti razionali ma non vi conviene, di Armando Massaretti, che era qui. Ciao Armando, edizione Guanda. Grazie. Arrivederci. Alla prossima. Alla prossima, ciao. Troppo poco tempo per troppe cose da dire. La puntata finisce qui, velocissimi. Ci sentiamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti e a tutte.